America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. My number one concern was if I send them in, can I get them out? And a lot of the discussion we had during the course of planning was how do we make sure there's backup? How do we make sure that there's redundancy built into the plan? So that we have the best chance of getting our guys out. Una settimana fa il presidente Obama ci ha dato l'annuncio dell'uccisione di Osama Bin Laden. Ieri ha fatto un bilancio del post. Ha lasciato intendere che forse il Pakistan dovrà fare uno sforzo per cercare di capire come mai il terrorista più ricercato del mondo stava tranquillamente in una città pakistana. Le pressioni vengono anche da altri funzionari dell'amministrazione. Tom Donilon, per esempio, chiede di poter intervistare le tre mogli di Osama Bin Laden, di mandare degli esperti in Pakistan, e sappiamo che ci sarà un viaggio prestissimo del capo dei servizi segreti pakistani Pasha a Washington proprio per cercare di trovare un terreno comune su cui ripartire nei rapporti fra Washington e Islamabad. Ma non è soltanto il post Bin Laden che colpisce. Abbiamo visto in Siria nel weekend ci sono state nuove repressioni durissime della protesta. Il governo siriano ha alzato il tiro, 14 morti soltanto a Homs. Al Cairo, liberata se vogliamo, ci sono stati però nuovi disordini e ci sono stati 12 morti. Dunque la situazione in Medio Oriente resta tesa. Mi risulta che le Nazioni Unite stiano preparando una risoluzione contro la Siria. Questo sarà uno sviluppo importante di questa settimana. Dunque sviluppi sul fronte politico, sul Medio Oriente e soprattutto su quello economico con la Grecia. L'ipotesi di una ristrutturazione del debito è sempre più accreditata e dunque vorrei dedicare questa puntata proprio ad approfondire il caso greco, e lo faccio con Nouriel Roubini, un economista, uno dei massimi esperti di questioni internazionali, qui con noi ai microfoni di America 24. Innanzitutto comincio col chiedergli se c'è davvero il rischio che la Grecia esca dall'euro. Secondo me no, questo non è un argomento che viene discusso tra i greci o gli europei. Nei prossimi anni non penso che vi sia alcuno dei membri dell'Eurozona che considererebbe seriamente di uscire dall'Eurozona. Quindi sì nell'euro, ma ristrutturazione debito? Sì, penso che la ristrutturazione del debito della Grecia avverrà l'anno prossimo. Il paese sta implementando il programma del Fondo Monetario dell'Europa, però la recessione sta peggiorando. Anche se facessero tutto, il debito pubblico si stabilizzerebbe intorno al 160% rispetto al PIL, che non è un livello sostenibile. L'anno prossimo devono accedere i mercati per circa 40 miliardi di euro. È chiaro che con questi spread ciò non avverrà, quindi a meno che la comunità internazionale volesse aumentare di altri 40 miliardi di euro il programma ufficiale, cosa che data la politica dell'Europa non avverrà, l'unica altra opzione che la Grecia avrà è di fare una ristrutturazione ordinata del debito pubblico. Non vuol dire che deve fare un default, può fare una ristrutturazione che è fatta in maniera che è market friendly. Sì, però l'anno prossimo, cioè le pressioni sono adesso. Hai ragione, delle discussioni su ristrutturare il debito stanno già avvenendo. In primo luogo la Troica, il Fondo, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea devono essere convinte dai greci che ciò bisogna farlo, ma anche se volessero decidere oggi di fare una ristrutturazione del debito ci vogliono tecnicamente perlomeno 6 mesi per fare quella ristrutturazione. Quindi secondo me a giugno, quando c'è la review del programma della Grecia, il settore ufficiale si renderà conto che la Grecia non può accedere ai mercati l'anno prossimo, e sarà quello il climax, che sarà il punto a cui verrà deciso che la Grecia dovrà ristrutturare il suo debito, e poi ci vogliono circa 6 mesi per farlo, che vuol dire che entro l'inizio dell'anno prossimo questa ristrutturazione avverrà. Però cosa si dice quando la Banca Centrale Europea dice l'area euro è seria, i debiti si pagano, non ci sarà ristrutturazione? Mi sembra che la BCE resiste. La BCE resiste, anche i greci ufficialmente dicono non stiamo considerando una ristrutturazione, ma la verità è che questo programma non sta funzionando, che il debito pubblico sarà a livelli che non saranno sostenibili, la recessione sta continuando, che la Grecia tutti sanno che non accederà ai mercati l'anno prossimo, quindi a meno che il settore ufficiale vorresse aumentare o raddoppiare l'ammontare dei fondi che verranno prestati nei prossimi anni alla Grecia, ciò che politicamente è impossibile e anche economicamente non sarebbe una cosa ragionevole. L'unica opzione che diventerà quella più realistica, quella che tutti convergeranno, sarà quella di una restituzione del debito. E quelli che hanno comprato i titoli greci al 25%, al 28%, quindi che perdite faranno? Quello non è ancora chiaro, perché anche se c'è una ristrutturazione ci saranno delle perdite. La domanda che uno si dovrebbe porre è se il valore del nuovo titoli che saranno scambiati per i vecchi titoli sarà al di sopra o al di sotto del valore di mercato del debito greco, che adesso è circa scontato al 30-35%, che vuol dire che se uno ha comprato oggi il debito può darsi che a questi prezzi che non ci saranno ulteriori perdite se vi è una ristrutturazione. Ma dopo, adesso dopo la Grecia, a quel punto la gente dirà beh, allora tocca al Portogallo, allora tocca alla Spagna. No, secondo me il fatto che vi sia una ristrutturazione in Grecia non vuol dire che ci sarà in altri paesi. Ci potrebbe essere o come ci potrebbe non essere. L'approccio in ogni caso in cui c'è una crisi deve vedere, uno, se il paese ha perduto l'accesso ai mercati. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo l'hanno perduto, la Spagna e l'Italia no. Il secondo, anche tre paesi che hanno perduto l'accesso ai mercati, che sono adesso in un programma di bailout, e provi prima di fare un programma che dice io vi diamo i soldi, voi fate un aggiustamento fiscale, fate le riforme strutturali e vediamo fra un anno se il problema è un problema di liquidità o un problema di solvency, di insolvenza. Nel caso della Grecia l'hanno provato per un anno il plan A, non ha funzionato, quindi bisogna muoversi al plan B, che è la ristrutturazione. Nel caso dell'Irlanda il piano programma è stato appena partito adesso, fra un anno vedremo se funziona o meno. Ci sono argomenti che dicono di sì, argomenti che dicono di no, e nel caso del Portogallo non hanno nemmeno iniziato il programma del fondo per il momento. Quindi in ciascuno di questi casi provi sempre l'approccio di pensare che forse il problema è un problema di liquidità, condizionalmente a fare programmi di aggiustamento fiscale e strutturale. Se non funziona vuol dire che non è un problema solo di liquidità ma di insolvenza, nel qual caso devi fare una ristrutturazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la voglio dedicare a Madonna. Ha fatto un annuncio ieri, registrerà una sua canzone, It's So Cool, con la figlia Maria Lourdes, appena 14 anni, per lanciarla nel mondo dello spettacolo, della musica e nel mondo discografico. Dunque sentiamo la canzone che dovrebbe darci una nuova Madonna, It's So Cool. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.